GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Ancora un cordiale buongiorno, una buona domenica da Elisabetta Zaccolo in studio per questa seconda edizione del nostro giornale radio. In apertura torniamo sul ritrovamento del corpo di un giovane cittadino afghano morto per il monossido di carbonio in una casa abbandonata di via Barci, Sapordenone. Aveva trovato un giaciglio di fortuna, le strutture di accoglienza al momento sono al completo. A breve, assieme ai suoi due connazionali rimasti intossicati, sarebbe entrato nel dormitorio. Qualcuno ha lasciato un lumino in via Barcis all'ingresso della stradina che conduce alla casa abbandonata nella quale ha trovato la morte Shirzai Fardullah, un 25enne che lì aveva cercato rifugio dal freddo e che con tutta probabilità è morto per intossicazione da monossido di carbonio. Con lui altri due giovani che sono riusciti a uscire in tempo dall'edificio e che sono stati condotti all'ospedale di Katinara a Trieste, uno in gravi condizioni. I tre di origine afghana avevano recentemente presentato richiesta di protezione internazionale e probabilmente la prossima settimana avrebbero potuto trovare posto nel dormitorio di via San Daniele, gestito da Caritas e Croce Rossa e riaperto da un paio di settimane proprio per offrire un riparo nelle notti invernali. Al momento, secondo la prefettura, le strutture di accoglienza sono al completo, ma si tratta di una situazione che varia continuamente. Ma anche pochi giorni e poche notti diventano lunghi quando alla mancanza di un tetto si aggiunge il freddo. E così i tre avevano cercato rifugio in un'abitazione abbandonata nella zona della Comina, che già in passato, racconta un residente, altre persone avevano utilizzato come riparo di fortuna. Per scaldarsi avevano utilizzato un braciere ed è probabilmente da lì che si è sprigionato il monossido. Pordenone, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. Anche quest'anno l'Associazione Donatori Sangue di Trieste ha organizzato la giornata provinciale del donatore che si sta svolgendo al Teatro Stabile Sloveno, ribadita l'importanza del dono a sostegno dell'intero sistema sanitario, premiati gli oltre 500 soci donatori dell'associazione. Il sangue non può essere prodotto in laboratorio e per questo, per le situazioni di emergenza e non solo, sono fondamentali le donazioni. È il messaggio alla base della giornata provinciale del donatore, un momento di festa ma anche di ringraziamento per i 523 donatori dell'Associazione Donatori Sangue di Trieste che si sono ritrovati al Teatro Stabile Sloveno per una mattinata di musica, premiazioni e riflessioni sul valore della donazione. Senza il sangue donato, ricorda il presidente Ennio Furlani, le sacche sarebbero vuote e verrebbe meno il diritto alla cura e alla vita. Per questo la giornata, viene sottolineato, sancisce un impegno e un patto tra territorio e cittadini per continuare a far crescere la cultura della donazione, soprattutto tra i giovani. Ad aprire la giornata un momento musicale con un concerto di canzoni di Lucio Dalla con il gruppo Dalla Radio. Subito dopo la lettura del discorso del presidente Furlani presente in sala e poi l'assegnazione dei premi alle associazioni, il ricordo delle iniziative tenute durante l'anno e poi il conferimento delle benemerenze per i donatori più assidui. Trieste, da Loronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia. Tutela dei lavoratori e pensionati, il rinnovo di tutti i contratti di lavoro privati, risorse aggiuntive per il rinnovo dei contratti pubblici, il blocco dell'aumento dell'età pensionabile, una maggiore flessibilità e l'estensione della 14ª per i pensionati, il rafforzamento del welfare, il contrasto della precarietà del lavoro povero, unito a politiche industriali per il rilancio dell'economia e dell'occupazione. Quanto chiede la CGIL al governo? Da qui la proclamazione dello sciopero generale del 12 dicembre, indetto per l'intera giornata di lavoro e per tutti i settori pubblici e privati. Il fisco e la sanità saranno tra i temi centrali della prima iniziativa promossa in Friuli Venezia Giulia, che si terrà domani a Pordenone, all'auditorium della Casa dello Studente alle 9:30. Uno sguardo al tempo, il cielo nuvoloso su pianura e costa, sereno in montagna, queste le temperature registrate alle 11, a Trieste 12 gradi, a Udine e Gorizia 8,5, a Pordenone 7, a Forni di Sopra 6,5 gradi, a Tolmezzo Piancavallo 5,5, a Tarvisio 3, a Sappada 0 gradi, sul Monte Zoncolan 4,5, sul Monte Lussari 3, a Grado 7, a Lignano 6,5 gradi. Le previsioni dell'ARPA regionale, oggi pomeriggio cielo variabile con nuvolosità in aumento a partire da ovest. Domani cielo in prevalenza coperto sulla zona e sulle zone orientali nel pomeriggio, sulla costa e sulle zone orientali nel pomeriggio sera saranno possibili precipitazioni deboli con quota neve a partire da 1200 metri. Si avvia verso la fine la prima edizione del Festival dell'Accoglienza all'Ospitale di San Giovanni di Maiano, organizzato dall'Associazione Amici dell'Ospitale, al termine di una settimana di eventi, mostre e laboratori. Questo pomeriggio una doppia replica dello spettacolo partecipativo Il Banchetto dei Sognatori. Sentiamo l'organizzatrice, Angela Babuin. È la prima edizione di un festival dove stiamo cercando di proporre dei laboratori teatrali, delle attività di riflessione, delle attività culturali attorno a una tematica che è legata all'ospitale di San Giovanni e allo spirito dell'ospitale e dell'accoglienza. In questa prima edizione il tema che abbiamo scelto di trattare è proprio l'ospitalità per inaugurare questo ciclo per il momento triennale di festival. Quindi in questa settimana che abbiamo passato all'ospitale abbiamo avuto l'occasione di lavorare sull'ospitalità sia dal punto di vista teatrale sia dal punto di vista filosofico, di riflessione, di scambio e di accoglienza anche del pubblico che dal venerdì viene ad assistere agli eventi che sono presentati durante questa iniziativa. Il programma di questo pomeriggio? Presentiamo il lavoro finale dei laboratori che ci sono stati durante questa settimana, quindi uno spettacolo teatrale costruito in questi 5 giorni di incontro con dei ragazzi che hanno partecipato all'iniziativa e con la compagnia Teatro des Grands Chemins che è venuta dalla Francia. Lo spettacolo si chiama Il Banchetto dei Sognatori e abbiamo 2 repliche, una alle 5 di pomeriggio e una alle 8 di sera. Il Brio del Barbiere di Siviglia e ieri Le Nozze di Figaro di Mozart hanno inaugurato la nuova stagione di lirica e balletto del Teatro Verdi di Trieste. Il nuovo allestimento della Fondazione rimarrà in programma fino al 13 dicembre. Non mi avrai farfallone amoroso, notte giorno di giorno Cominciano come una sinfonia in bianco anche Le nozze di Figaro di Mozart, seconda parte del dittico dedicato a questo personaggio che apre la stagione del Verdi di Trieste. Anche qui l'allestimento di Pierluigi Pizzi disegna un candido interno di primo 800. Le macchie di colore dei costumi però si fanno sempre più marcate. L'ultimo atto poi si sposta in un parco metafisico con le siepi tagliate in modo geometrico e in una luce blu notte che illumina il complicatissimo intreccio che, come in Rossini, coinvolge personaggi a tutto tondo con le loro grandezze e le loro cattiverie. Sentiamo il regista. 2 meravigliose commedie e commedie, insisto sul fatto che sono vere commedie, non farse, quindi hanno bisogno di essere recitate con grande energia, con grande impegno, ma mai sconfinando negli eccessi che ne trasformerebbero una bella commedia in una brutta farsa. Leggerezza di commedia anche nella lettura di Enrico Calesso alla guida di un'orchestra del Verdi semplicemente perfetta, con il colore distintivo dei legni, flauti, oboi, clarinetti e fagotti, sempre nella dovuta evidenza. Difficile a scegliere anche nella compagine dei cantanti, tutti molto bravi, ancora più che Simone Alberghini che era Figaro e Carolina Lippo come Susanna. Il pubblico ha premiato Giorgio Cauduro nel ruolo del conte, Yekaterina Bakanova, la sua sfortunata consorte, e Paola Gardini nel ruolo di Cherubino, quasi inevitabilmente data la qualità delle arie di questo personaggio, che sono fuori dal comune anche per gli standard mozartiani. Trieste, Andrea Vardanega, TGR Friuli Venezia Giulia. Alcuni appuntamenti musicali in programma per oggi, si intitola Paesaggi Magiari, il 5° concerto del ciclo, in magazzino 26 in Porto Vecchio. Appuntamento conclusivo per la settimana di lavoro con la Friuli Venezia Giulia Orchestra, guidata dal maestro Paolo Paroni, che ha individuato 7 giovani direttori d'orchestra da tutto il mondo per il concerto Sinfonia di Talenti. Sul palco i selezionati tra una 20ina di giovani che hanno partecipato alle attività formative a Palmanova. al Teatro Gustavo Modena alle 18. Ed è tutto per questa nostra edizione del Giornale Radio. In redazione ha collaborato Paolo Nuzzo, per la parte tecnica in regia Mauro Ciccarelli e Carlo Morello. Da parte di Elisabetta Zaccolo, grazie per l'attenzione e l'augurio di un buon pomeriggio e ancora una buona domenica. Abbiamo trasmesso TGR, Giornale Radio del Friuli Venezia Giulia.